Il punto di Stefano Folli. L'immagine di quel telecronista di Sky in mezzo alla piazza di Genova che aspetta invano l'intervista che Beppe Grillo aveva promesso all'emittente ormai da giorni, vedere quel giornalista isolato in un angolo e guardato a vista dal servizio d'ordine del leader, è qualcosa che non fa bene alla democrazia. Uno può decidere di non andare in televisione, è un suo diritto, ma non può prendere un impegno e all'ultimo momento disdirlo quando si accorge che la trasmissione non sarebbe stata un comizio, bensì una normale serie di domande e risposte. L'opinione pubblica nelle società moderne si forma così, attraverso un contraddittorio. Altrimenti c'è solo il rapporto carismatico fra il leader e la folla, cioè rivolgersi non a cittadini, bensì a militanti, osannanti e totalmente acritici. E il conformismo di massa è pericoloso, Beppe Grillo dovrebbe essere il primo a saperlo, anche quando, come in questo caso, ne è il beneficiario.